Tutti i libri della Bibbia, la parola del Signore, dal primo all'ultimo libro, non ci parlano attraverso concetti, ma ci propongono immagini, personaggi, simboli, azioni, eventi, che sono in mano nostra, che dobbiamo leggere, comprendere, interpretare e, se siamo capaci, anche di vivere. Per fare questo ci soccorrono i segni. Ieri era la stella, segno del cielo, cui corrispondono segni della terra. Poi ci sono i sogni. Anche nella scrittura di oggi, mezzi tecnologici di attualità. Vabbè. Anche nella scrittura di oggi troviamo un segno che viene dalla terra, a cui corrispondono segni del cielo. Il primo lo dà Gesù con il suo battesimo e, al di là delle varie interpretazioni molto belle, artistiche, se volete, è invece un segno molto più forte. Pensate, nella liturgia orientale, il bambino nudo viene completamente immerso nell'acqua, perché battesimo significa immersione. Ora, quell'immergersi nell'acqua, che significato ha o aveva? Di solito nel linguaggio comune diciamo andare a fondo, per significare quando le cose vanno male. Nelle preghiere cosiddette dei salmi si trova continuamente l'invocazione perché il Signore ci salvi dalle acque, perché sprofondare nell'acqua e non sentire più la terra sotto i piedi è appunto l'immagine, un segno, di esprimere, come dire, lo sprofondarsi dell'anima. Poi ognuno ha i suoi sprofondamenti. Qualche volta anche nella voce, nella solitudine, nella paura, nella gelosia, nella umiliazione, nel rancore, nel dolore. La fatica dell'esistere. Uscire dall'acqua voleva dire simboleggiare il tornare alla vita integra, alla vita innocente se possibile, coltivare desideri, progettare per la propria vita, esprimere la parte migliore di noi, entrare e uscire dall'acqua, porto all'estremo, assurge al simbolo della morte e risurrezione, vita, morte, risurrezione. Nelle immagini orientali si vede Gesù immerso fino alla gola in un fiume che si eleva come una montagna. È l'immersione totale della obbedienza, della fedeltà, della fiducia della sua missione. È come dire, rinuncio ai miei privilegi, si fa per dire. È lì che Gesù Cristo compie un gesto di sprofondamento, scende dal cielo e giunge sulla terra. E il segno di Gesù nell'acqua a questo segno risponde il segno del cielo, si palesa lo Spirito Santo in una forma di colomba, e qui c'è tutta una serie di miti, no? Dentro in questo linguaggio, miti che provengono da chissà quale cultura, per dire che il rapporto tra il Figlio e il Padre è tutto pervaso dallo Spirito, su quell'uomo che il Figlio di Dio diventa visibilmente uomo. Cala il segno perché l'altro lo veda. Mi colpisce, se avete la pazienza, mi colpisce il messaggio che arriva, perché Gesù, dal momento del battesimo, è abitato, è invaso dallo Spirito di Dio. Gesù lascia fare e si fa battezzare, arriva dalla porta centrale. E Giovanni avrebbe potuto dire, ma come? Ti stai giocando l'inizio della tua vita pubblica, così in mezzo ai peccatori, in mezzo alle difficoltà delle persone che vivono. C'è una voce che dice, questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Il battesimo è fatto di acqua, voce, spirito. Mi colpiscono le tre parole. Figlio, questo è il figlio mio. La prima parola che dice il vertice del desiderio. La più importante, perché è quella che conduce alla crescita dell'essere umano. Figlio amato, ed è la seconda parola, come dire il sigillo sulla nostra identità. Io sono amato. Il mio nome è amato per sempre. Sembra una frase buttata lì, ma se entriamo nella logica della fiducia in Dio, si spalanca non appena la testa, il cuore, si spalanca tutto della nostra vita. E c'è la terza parola, mio compiacimento, termine che dice gioia. Termine che dice godimento. Dio gode di me. Qui lascio i puntini. Voglio aggiungere però una cosa, perché devo fare i conti con il mio vivere. Ma che significato ha tutto questo per noi? Che cosa ci manda a dire? Colgo due conseguenze. Se mi chiedo chi oggi costruisce la storia degli uomini nell'intreccio degli avvenimenti che sono anche tragedie, vedo che si possa dire che a costruire la storia sono coloro che hanno nostalgia infinita del vivere, della vita. Sono coloro che hanno l'inquietudine, poi con le matite in mano se volete, di volere che la vita sia interamente vissuta. Qui i soggetti che fanno la storia, che poi è l'inizio del Regno di Dio, che Gesù Cristo ha detto attenti, sta già, sta qui, sta là, non ci credete tanto, qui, là. Queste persone sono coloro che non si arrendono e non opprimono la vita, ma aiutano a crescere. E qui il discorso si fa politica di responsabilità. Creazione di legislazioni, di istituzioni, di servizio, appunto perché la vita cresca. Il grande dramma del cristianesimo, noi se vogliamo essere fedeli, seguaci di Gesù Cristo, ecco, il grande dramma è sempre Gesù Cristo. Perché dico questo? Dio uomo nella stessa persona. Mi chiedo, il dividerli non è un dramma? Ecco il senso del nostro essere con, insieme a Gesù Cristo, battezzati. Riuscire a riconciliare nella propria esistenza, nelle proprie scelte e così via, l'amore di Dio e l'amore per l'uomo. Mi spiego meglio. In questo momento non mi sento lontano da Dio o di sentirlo nascosto mentre mi ci appassiono a quel che avviene in me, in chi sta attorno a me, negli uomini in genere, le persone, il creato. Ma d'altra parte non sentirmi lontano dagli uomini mentre sono qui a celebrare la liturgia eucaristica. Esiste una realtà unica. Che dono di grazia riuscire a viverli insieme, Dio e gli uomini. E per darvi una stufata infinita, concludo con queste piccole osservazioni. Proprio nel momento dell'immersione di Gesù nell'acqua, carica di debolezze dell'umanità, la voce del Padre si fa udire. Ripeto, tu sei mio figlio diletto, l'amato, in te provo grande godimento, grande gioia. Gesù proprio lì, in mezzo agli uomini affaticati, inquieti, il Padre ha voluto riempirlo di spirito. Allora, se ha senso questa festa, è per noi memoria dell'immersione che sta all'inizio della nostra vita di seguaci di Gesù Cristo, il nostro battesimo, ma al contempo è memoria della voce di Dio rivolta a ciascuno di noi. Tu sei figlio mio diletto. E tutto questo per una vita che diventa il canto della felicità per ognuno di noi e diventa un atto di lode a Dio Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.